y vedo che normalmente il concetto di crescita e il concetto di sviluppo si considerano sinonimi e quindi nei mezzi, nei mezzi di comunicazione, in televisione, crescita o sviluppo, adesso c'è un problema di crescita, quando in realtà, secondo il mio punto di vista, sono due concetti diversi. Crescita è un concetto che ha a che vedere con dei parametri molto oggettivabili che normalmente trovano il suo posto nel bilancio aziendale. Questo è crescita. In campo aziendale, anzi più vasto, un ambito sociale, sviluppo include inevitabilmente parametri umani che non sono soltanto riducibili a numeri. Questo è veramente sviluppo. Una cosa è crescita in termini di parametri economici, l'altra è sviluppo. Qui entra di mezzo la persona. Se stiamo parlando di persone, allora nel concetto di sviluppo dobbiamo parlare di aspettativa di vita, educazione, visione di futuro, tutte le cose che fanno di una persona quello che è una persona e non un animale. Per questo io, che non sono economista, mi sono permesso di inventare un concetto economico. Siccome non sono economista, mi posso prendere questa libertà. Si parla molto di prodotto interno lordo. È un concetto, tutti sappiamo che cosa significa. Prodotto interno lordo. Per me questo è insufficiente. Se non tiene conto, e con questo il concetto che mi è venuto in mente a creare, prodotto umano netto. Gli economisti per adesso non me lo hanno accettato ancora e spero che un giorno lo accettino. Prodotto umano netto. Faccio riferimento a un teorico conosciuto anni 70, 1970, che era Friedman, in America, della scuola neoliberale di economia negli Stati Uniti, dove lui diceva chiaramente la unica finalità del consiglio di amministrazione di un'azienda, l'unica finalità, e diceva lui, l'unica finalità sociale di un consiglio di amministrazione di un'impresa è guadagnare la maggiore quantità di soldi nel minimo spazio possibile. Naturalmente, aggiungeva lui, nel rispetto delle leggi fiscali, lavorative, eccetera. Ora si è sviluppato da allora una diversa visione dell'azienda e della responsabilità sociale di un'azienda. Per fare una sintesi, questa idea è: un'azienda che opera in un entorno, in una società, va capita dal punto di vista della sua responsabilità sociale come se fosse un individuo singolo che accetta doveri e adempie a questi doveri anche nell'utilizzo della sua libertà, che sceglie di fare questo o l'altro. Se sceglie i giovani, che cosa si sta scegliendo? Si sta scegliendo di scegliere il futuro. Non sto scegliendo risolvere come posso un problema di oggi, ma sto cercando di mettere la base perché questo problema domani non si presenti. I problemi che gli uomini possiamo risolvere, ci sono altri problemi che gli uomini non possiamo risolvere, ma quando si sceglie i giovani si fa una scelta di questo tipo qua. Si sceglie il futuro, ma non un futuro di sopravvivenza, ma un futuro che vorrei che fosse diverso, quel futuro che magari io oggi non ho conosciuto e vorrei che questo fosse il futuro. E questo spiega la scelta di giovani. Le economie che crescono oggi, anche in un momento difficile, molto difficile, poi parlavo con un economista appunto, diceva: no, non sono convinto che questa crisi in cui adesso siamo è ancora molto più grave di quella del 29, famosa, che tutti abbiamo studiato, che sta in tutti i libri, che sono successe delle cose terribili. Questa, mi diceva lui convinto, è molto superiore a quella del 29. Ma dico, sono praticamente d'accordo tutti i teorici dell'economia che le economie che anche oggi crescono in questa situazione sono le economie che hanno come piramide di popolazione molta gente giovane, che hanno della gente giovane. È una risorsa non soltanto biologica, non soltanto demografica, ma anche e soprattutto, probabilmente, direi, economica.